falsa mercanzia. Io non compro più speranza, che gli è falsa mercanzia. Ad Arsola tendo via quella poca che m'avanza. Io non compro più speranza, che gli è falsa mercanzia, che gli è falsa mercanzia. Cara, un tempo la comprai, or la vendo a buon mercato, e consiglio ben che mai non ne compri un sventurato, ma sempre nel suo stato, se ne resti con costanza. Io non compro più speranza, che gli è falsa mercanzia, che gli è falsa mercanzia. E il sperare come il sogno, e per più riesci in nulla, e sperar proprio il bisogno di chi al vento si trastulla, e sperar sovente a nulla chi continua la sua danza. Io non compro più speranza, che gli è falsa mercanzia, che gli è falsa mercanzia.